Trino. Jai. Nella mia notte, viaggiando senza soste, strade percorse mi danno delle scosse. A volte mi dimentico la mia terra da mare, e dalla paranoia sai mi faccio secondare. Trovo l'amico architetto e il tipo col brevetto, questa è la mia terra ed è così che io l'accetto. Un po' tra nuovo e vecchio, girando tra ste vie, me le sento mie. Nessuno può capire quel che vedo all'orizzonte, mentre lentamente il sole sai che scende. Oscura la mia mente e si sente che stanotte sta venendo. Intendo passare, sai, del tempo stupendo. Attendo che sta serata migliori, mentre qui davanti a 3000 sti motori. Rumori su rumori, luci e colori, tutto sai rimane dentro i nostri cuori. Giochi dei bambini, il calore dei vicini. Non abbiamo dei confini, ma continuiamo sempre questa espansione. Questa è la reazione di chi vive al meridione. Il piacere di restare qua senza alcuna polemica. L'amor della mia terra, questa è la mia tematica. Sai, mi piace quello che c'ho intorno. Non è solo orgoglio, ma è un bene più profondo ed è un po' che cresce dentro me. Vieni giù da me, forse tu non sai che c'è un tesoro abbandonato al tempo. Lento il cambiamento, sai che mi ci ambiento, ma non si sa poi quando, con i suoi difetti e i suoi splendori. Mentre vado fuori, calpesto questi suoli, pieno di attenzioni per le mie radici, fragranze sotto le narici, esplorando queste superfici. Sai che stanotte va, dorme già la mia città, mentre il tempo passa non si sa più che si fa. Si gira e si rigira, senza alcun senso, cerco un altro buco in cui ci possa stare dentro. Sai che stanotte va, dorme già la mia città, mentre il tempo passa non si sa più che si fa. Si gira e si rigira, senza alcun senso, cerco un altro buco in cui ci possa stare dentro. Nella mia notte, nella mia notte, nella mia notte, nella mia notte, nella mia notte.